Cazzo Grande presenta La faccia da indossare, un ultimo grido disperato, questa vita non ci ha dato quasi un cazzo. Non faccio testo crocio, sopravvivo poi mi ammazzo. Con l'asso appeso morto, a gravina dentro un pozzo, cercando il lieto fine scritto in faccia a un altro mosso. Il figlio dell'aborto con il gene sempre infetto, il prete coi bambini in una camera da letto. Sono l'odio che è represso, una gran testa di cazzo. Sono Lindo e Rosa Pazzi, i tuoi vicini nel palazzo. Sono il pazzo disperato che ha rapito vostro figlio. Sono gli occhi di Tommaso mentre cerchi di colpirlo. Sono il grido soffocato della mia generazione. Sono l'ultimo neonato abbandonato in un cartone. Sono quello che non muore, un vegetale tipo Wellsy. Sono in decomposizione sulla terra costi versi. Siamo fermi come larve, il male marginale. Questa società ci impone la faccia da indossare. Sono la vita rubata di Madeleine e Chiara Poggia, casalinga disperata con i figli tutti morti. Sono immagini negli occhi verso decomposizione. Sto in fondo a questo pozzo con Francesco e Salvatore. Sono quello che alla festa muore sotto questo effetto. Sono il giovane innocente ma colpevole al verdetto. Sono il padre con la figlia e i ciocchini dentro al letto. Sono tra insegnanti e alunni nell'asilo maledetto. Sono sangue infetto che sporca il Vaticano. Sono Anna Maria Franzoni col bambino ancora in mano. Sono il peggio che hai cercato, il peggio che hai voluto. Sono Carlo Giuliani nel suo ultimo minuto. Sono il grido d'aiuto che squarcia la notte. Respira sto fumo, il sangue, le note. Suona questo pezzo al mio funerale, che almeno mi ricordo la faccia da indossare.